Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buon pomeriggio e buona domenica da Gegè Telesforo. Questa è la puntata numero 171 del nostro soundcheck della prova del suono di Radio 24 e buona domenica e buon pomeriggio anche al nostro Francesco Tromba. Buon pomeriggio a tutti. Francesco, sei sempre impegnato sul tuo computer, oggi più che mai, proprio perché parliamo proprio di piattaforme telematiche importantissime per la fruizione della musica di oggi, importantissime soprattutto per i giovani musicisti e i giovani artisti che vogliono far conoscere la loro arte e il loro talento pur non avendo a disposizione la distribuzione di una casa discografica ufficiale, magari di una major o anche di una casa discografica indipendente. Quindi di cosa vogliamo parlare? Parliamo di SoundCloud e di Bandcamp, che sono due piattaforme diverse, diciamo, comunque sempre di diffusione della musica, però diciamo che SoundCloud è molto più simile a MySpace, come era MySpace una volta, nel senso che è più una piattaforma di condivisione e di distribuzione della musica che però non mira comunque a vendere la musica, semplicemente a diffonderla. È una sorta di vetrina per i musicisti giovani, ma anche per quelli affermati che vogliono magari avere prima dell'uscita dell'album un riscontro di pubblico. Ecco, quindi dicevi, una vetrina importante per i giovani artisti, ma anche per i veterani che vogliono pubblicare qualcosa di alternativo alle produzioni ufficiali realizzate per le case discografiche. Non si può acquistare musica attraverso SoundCloud, però si può acquistare musica invece attraverso un'altra piattaforma importante e contemporanea come Bandcamp. Che cos'è Bandcamp? Bandcamp ha lo stesso, diciamo, la stessa idea iniziale di SoundCloud, solo che a SoundCloud aggiunge anche la possibilità di vendere la musica, quindi è una sorta di etichetta liquida, possiamo dire, online, che permette agli artisti di promuovere, di vendere la propria musica, ma anche i propri supporti. Ad esempio ci sono degli artisti che realizzano comunque gli LP o le magliette. O anche un singolo brano, no? Ora, succede che quando si pubblica una propria composizione, una propria produzione su Bandcamp, non significa che poi una volta che la richiedi l'artista ti deve spedire il disco a casa. No, non è così, perché stiamo parlando di musica digitale, quindi di musica che viene ascoltata sul formato MP3 e che può essere a questo punto scaricata sui nostri sistemi. La possiamo scaricare sul nostro computer o direttamente sul nostro telefonino, che ormai ha varie funzioni: quella di ascoltare musica, di fare filmatini, di farsi selfie, fotografie e di poter avere quindi in mano e in giro per il mondo con noi un mezzo oggi indispensabile anche per la fruizione della musica. Sì, su Bandcamp si può sia ascoltare comunque anche in maniera free, senza pagare nulla, sulla pagina dell'artista. Però nel caso in cui si voglia acquistare comunque la musica, si può acquistare anche la singola canzone. La tariffa richiesta da Bandcamp è di un 15% sulle vendite, appunto. Ecco, sul prezzo di acquisto del singolo brano. Sì. Poi praticamente l'artista fa un accordo con i signori delle piattaforme digitali, per cui gli arrivano i soldini a casa direttamente con bello assegno. Quindi si scavalca tutta la catena della distribuzione, che ha reso anche il costo dei CD per questo motivo troppo alto per i giovani fruitori di musica. È anche una maniera più diretta e più dinamica di vedere, di distribuire la musica, il mercato discografico in generale, possiamo dire. E fra gli artisti che noi abbiamo scoperto utilizzando, proprio andando a girovagare nei meandri di queste piattaforme digitali, quindi SoundCloud e Bandcamp, c'è questo giovane artista australiano, producer, pianista, cantante, si chiama Jordan Rakey, noi lo abbiamo già presentato qui al Soundcheck, che sporna musica in continuazione, perché quindi quando tu componi un brano e lo realizzi, puoi direttamente un secondo dopo pubblicarlo sulla tua pagina su Bandcamp o SoundCloud. E vi stiamo parlando quindi, come dicevamo, di Jordan Rakey, che ha pubblicato pochi mesi fa su quale piattaforma? Su Bandcamp. Su Bandcamp, con la partecipazione di una vocalist chiamata Gwynban, questo brano molto interessante, contemporary nel suono e nell'approccio, brano intitolato Street Light, con il quale apriamo questo appuntamento del nostro Soundcheck qui su Radio 24. Jordan Rakey. But I remember when my nights were gray, because of you I can see the light of day, and I swear I knew it right away, oh right away. Hope the night skies light up in my life. Jordan Rakey, che incontrerete visitando la sua pagina su Bandcamp. Su Bandcamp, e lì incontrerete tanti giovani artisti che, non avendo un contratto discografico ufficiale con major e indipendenti, hanno la possibilità così di far conoscere la loro arte e il loro talento. Invece un artista che io conosco da tempo e della quale ho comprato praticamente tutti i CD e anche un vinile è la signora India Ari, una volta giovane talento, oggi artista affermata, che qui arriva al Soundcheck con Get It Together. One shot to your heart without breaking your skin. No one has the power to hurt you like your kin. Soundcheck. Il suono della musica. Mercy, Mercy, Mercy, una composizione del maestro Joe Zawinul, scritta quando militava nel quintetto del sassofonista Julian Conobal Adderley, che viene ricordato dal suo collega contemporaneo Tom Scott, con una all-star strepitosa come Marcus Miller al basso elettrico, George Duke pianoforte, Rod Fender, ma anche Steve Gadd alla batteria, album intitolato Cannon Reloaded. E oggi stiamo parlando con il nostro Francesco Tromba del nuovo modo di ascoltare musica. Si scoprono i nuovi artisti utilizzando piattaforme digitali come SoundCloud o Bandcamp, ma gli appassionati di musica, per esempio quelli di jazz piuttosto che quelli di pop, hanno atteggiamenti diversi nel modo proprio di approcciarsi con il supporto musicale. Ci sono supporti diversi, esiste ancora il CD, esistono ancora i vinili che vengono stampati soprattutto non solo per i DJ, ma per gli appassionati che vogliono ancora avere il gusto di poter ascoltare la musica con il sound analogico, quindi non digitale, e quindi sentire tutte quelle meravigliose frequenze che rendono gli strumenti più caldi e profondi. Ma qual è l'atteggiamento diverso secondo te fra un appassionato di pop contemporaneo e un vecchio appassionato di jazz? Ovviamente il supporto fisico per l'appassionato di jazz, ma posso dire per gli appassionati di musica in generale, quelli che proprio hanno un hi-fi con il giradischi, le casse fighe, vintage magari, cioè questo tipo di ascoltatore ovviamente è... sempre alla ricerca di supporti fisici come possono essere gli LP. Per questo motivo c'è anche un boom dei mercatini di vinili. Ecco, io credo che poi l'appassionato di jazz, ma anche quello di rock, abbia la curiosità di andarsi a pescare tutte le informazioni che riguardano la produzione, quindi i musicisti, dove è stato registrato, cose che naturalmente non puoi ottenere se acquisti il supporto o scarichi il supporto MP3 attraverso una piattaforma digitale. Certamente nelle pagine dedicate agli artisti su Bandcamp trovi anche alcune informazioni, non tutti, ma anche perché la maggior parte degli artisti producer autonomi poi alla fine fanno tutto in casa e da soli. Sì, magari non si rendono neanche conto che c'è molta gente che è alla ricerca di queste informazioni. Ad esempio sulla pagina di Jordan Rakei che abbiamo ascoltato prima, nella maggior parte delle sue produzioni ritroviamo tutte le informazioni che ritroviamo anche su un supporto fisico come può essere il CD, quindi dove è stato registrato, gli autori, la durata del brano, tutto questo tipo di informazioni. Invece per altri artisti non viene citato nessun tipo di informazioni. Sì, perché per loro non sono importanti, ma importanti per noi. E ci sono i veterani, per esempio Al Jarreau e George Benson, che certamente sono attenti al mercato e al nuovo tipo di fruizione musicale. E allora che cosa fanno? Pubblicano i loro dischi, ma realizzano delle masterizzazioni, dei mastering diversi. Che cos'è il mastering? Dopo il missaggio, ecco, è una sorta di make-up finale che rende il suono del disco più bello. Quindi si va in questi studi, come per esempio lo Sterling Sound di New York, che è uno degli studi di mastering più importanti del mondo, per fare l'ultimo tocco al suono della propria produzione. Però, visto che poi il disco può essere anche ascoltato in MP3, oggi si fanno i mastering fatti proprio per iTunes e per MP3. E allora ascoltiamo Al Jarreau e George Benson in questa loro personale versione di Ordinary People, il brano che ha portato al successo una star di oggi come John Legend. Oh, Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Alla New School for Jazz and Contemporary Music di New York, la voce e il sound di Bilal, uno dei nuovi protagonisti della scena jazz e R&B lì negli Stati Uniti. Questo ragazzo che si chiama Bilal Saeed Oliver, nato da mamma che praticamente frequentava la chiesa battista, papà musulmano. Com'è cresciuto secondo te questo Bilal, con una cultura molto particolare? Sì, in realtà andava molto più spesso in chiesa con la madre, ma quindi l'influenza materna è stata maggiore rispetto a quella paterna, che evidentemente comunque anche magari il coro della chiesa ha avuto una presa diversa magari rispetto a quella che può essere la tradizione musulmana. E infatti anche Bilal si è formato musicalmente frequentando il gospel della chiesa della mamma, per poi approdare alla New School di New York. Si è formato e tra l'altro, guarda, è un musicista completo, perché lui non canta soltanto soul, jazz, R&B, ma è anche un bravissimo cantante di musica classica. Si è formato pure cantando le arie delle opere che noi conosciamo benissimo. Bilal è uno dei protagonisti di oggi, il brano era Slide qui al Soundcheck di Radio 24. E anche Bilal, da musicista contemporaneo, senz'altro utilizza la tecnologia per far conoscere la sua arte e il suo talento, tecnologia che non sfugge ai protagonisti di oggi, che in studio di registrazione utilizzano quindi i computer e attrezzature molto sofisticate per l'editing e per esempio anche per la manipolazione del suono, anche della voce. Si può intonare la voce, la si può strecciare, si può cambiare la tonalità anche di una voce, cosa impensabile una volta quando si registrava in audio, quindi direttamente su un nastro. Ma i musicisti musicisti contemporanei, quindi, che cosa fanno? Mettono insieme il passato e il futuro della tecnologia, cosa che fa anche il nostro amico Robert Glass, perché continua a essere presente nel nostro soundcheck. Perché? Perché coniuga proprio passato e presente, e questa è una cosa che ci piace molto. Tra l'altro, l'abbiamo detto ieri, Robert Glasper arriverà in Italia il 17 novembre per un concerto con Jason Moran all'Auditorium Parco della Musica, e anche Robert Glasper non si è lasciato sfuggire il talento di Bilal, che considera uno dei migliori cantanti in circolazione in questo momento. Io ho assistito a una lezione di Robert Glasper negli Stati Uniti, una lezione di musica, naturalmente l'ho seguita come via internet su YouTube, dove, parlando a questa classe di cantanti, lui, come esempio di vocalità contemporanea, fa il nome proprio di Bilal. Allora ascoltiamo questa operazione di Robert Glasper con Bilal e anche la voce di Jasmine Sullivan da Black Radio 2. Questa è una delle tracce inserite nella special edition, perché oggi si fa anche così, cioè tu puoi vendere un disco con 10 tracce a un prezzo e poi metti l'edizione speciale, che costa un po' di più ma ti dà la possibilità di poter avere molta più musica a disposizione. Quindi questo brano intitolato You Are My Everything con Bilal e Robert Glasper lo troverete soltanto nella special edition di Black Radio 2 qui al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. The Family Soul, al secolo Asia Graydon e suo marito Fatin Dantzler in I Am qui al Soundcheck di Radio 24. Puntata interessante, sono arrivate moltissime email al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it di appassionati di musica che stanno dicendo la loro sulla fruizione della musica, e devo dire che gli appassionati di musica di Radio 24 preferiscono il vinile, preferiscono ancora recarsi nel negozio di dischi magari una volta al mese e andarselo a scegliere il disco da acquistare, anche perché regalare un CD ancora oggi è una cosa bella, si fa una bella figura. Sì, però diciamo che è difficile riuscire a trovare magari le novità, come ad esempio Jordan Rakei, sicuramente non lo troverete facilmente nei negozi di musica. No, senz'altro non si trova Jordan Rakei, ma così come nei negozi di musica, nei negozi di dischi non si trovano i nuovi protagonisti, perché proprio c'è una mentalità diversa alla quale ci dobbiamo tutti abituare. Quindi finirà anche l'era del CD, ci siamo quasi, no? È praticamente un pachiderma morente la distribuzione fisica del CD, e dobbiamo prepararci tutti, quindi preparare anche i nostri genitori a utilizzare il telefonino come supporto musicale, e quindi più che altro tocca insegnare ai nostri genitori come si fa a importare, a fare il download degli MP3 sul telefonino direttamente da iTunes. E noi raccomandiamo l'utilizzo di iTunes e comunque di siti dove c'è la possibilità di potersi scaricare in maniera legale la musica, perché facendola abusivamente, lo ricordiamo, si danneggia la musica stessa, gli artisti, i compositori e gli editori. A proposito di iTunes, vi volevo segnalare un appuntamento live, l'iTunes Music Festival, che si svolgerà, è già in atto a Londra, alla Roundhouse. Vi volevo segnalare il 25, che è un giovedì, a Londra, Mary J. Blige si esibirà gratuitamente sul palco del Roundhouse. Sì, e ci sono anche delle altre iniziative che riguardano la distribuzione della musica, per esempio U2 hanno avuto un'idea geniale, o diabolica? Diciamo che se lo possono permettere, o magari un artista emergente ha più difficoltà a farlo. Hanno deciso di distribuire gratuitamente su iTunes il loro nuovo album, che verrà scaricato, anche se non lo volete, da tutti gli utenti che hanno un account iTunes. Quindi io che ho un account iTunes, naturalmente, riceverò gratuitamente il nuovo album degli U2, anche se non lo desidero. Sì, esatto. E vabbè, lo ascolterò volentieri comunque, per farmi un'idea. Bene, termina qui la prima parte del soundcheck di oggi. Noi torniamo alle 19:15 dopo l'informazione e vi lasciamo con il sound poderoso. Questo è un super shuffle creato dal maestro del funk Maceo Parker, brano intitolato Lady Luck. Quindi a tutti voi appuntamento alle 19:15 per la parte più jazz del nostro programma, giusto? A più tardi allora. A più tardi, Francesco. Oh lady luck, turn your back on me. Now I'm full of misery. There's only one thing left for me to do. It's try not to think about you. Now I'm full as a sad song. Like any day, everything go wrong. There's only one thing left for me to do. It's try not to think about you. Two, hey, hey. Something, something, something, something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Buonasera da Gigi Telesforo, sempre in contatto con il soundcheck di Radio 24, seconda parte, quella di questa domenica, addirittura l'appuntamento numero 171 è quello di oggi, seconda parte dedicata al suono del jazz, e vorremmo rifarci però a quello che abbiamo detto oggi pomeriggio. Nella prima parte del pomeriggio qui su Radio 24 abbiamo raccontato di queste piattaforme digitali chiamate Bandcamp e SoundCloud, con le quali i nuovi appassionati di musica, ma anche i nuovi artisti, propongono e ascoltano le nuove produzioni, scavalcando quindi tutta la catena di distribuzione legata al supporto fisico, che sia CD o che sia vinile. Questo è un danno forse per la discografia ufficiale, per le major, le case discografiche indipendenti? Forse no, però è, rappresenta ancora oggi il futuro, sebbene queste due piattaforme abbiano ormai compiuto 5, 6, 7 anni di vita. Sì, risalgono entrambe al 2007. La cosa più difficile dal mio punto di vista è stare dietro a tutte le nuove produzioni che vengono pubblicate sia su SoundCloud che su Bandcamp. C'è un dato che dice che ogni ora vengono pubblicate più di 12 ore di musica. Quindi è molto difficile stare dietro a queste nuove pubblicazioni, è praticamente un lavoro. È praticamente un lavoro anche per noi che dobbiamo andare a scoprire i nuovi artisti, ma questo è il futuro. Allora io mi domando, un veterano come Tony Bennett, per esempio, che col quale apriamo la puntata anticipando quindi la pubblicazione di Cheek to Cheek, nuovo album per questa strana coppia Tony Bennett Lady Gaga. Tony Bennett, come l'ascolta la musica a casa? In MP3? Ci avrà un piatto di vinile? Ma secondo me se la suona proprio sul pianoforte, chiama il trio e lo fa suonare e alla fine continua a divertirsi. Fatto sta che la strana coppia è strana proprio perché Lady Gaga rappresenta l'artista pop di riferimento di oggi e Tony Bennett un veterano del jazz, quindi anche per questo motivo. Però il disco è realizzato molto bene perché c'è una produzione importantissima alle spalle. Sì, tra l'altro ci sono addirittura 5 diverse edizioni di questo disco di Cheek to Cheek, con varie bonus track, diverse diciamo artwork nelle copertine, nei libricini del disco. Quindi per chi acquista musica attraverso iTunes in maniera legale, la possibilità di poter acquistare composizioni della tracklist differenti. Sì, devo dire che Lady Gaga, vederla in questa versione praticamente jazz, è veramente strano. È veramente strano, ma non è male. Guarda, te lo voglio dire, non è male. E allora apprezziamo il talento di Lady Gaga con Tony Bennett in questo classico intitolato I Can Give You Anything But Love, qui al Soundcheck di Radio 24. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell. Gaga. Till that lucky day, you know, don't love, baby. Oh, I can't give you anything. I don't want just anything. Oh, I can't give you anything but love. Si intitola Cheek to Cheek, l'album della strana coppia Tony Bennett e Lady Gaga, già primi in classifica su iTunes nella sezione jazz, con l'album in prevendita. Quindi quando sarà pubblicato staremo a vedere cosa succederà. Ci sarà un'esplosione assoluta, penso. Sì, anche perché siamo fra i primi a proporre via radio questo singolo, il classico I Can Give You Anything But Love. Ma fra i protagonisti che noi abbiamo lanciato radiofonicamente nella passata stagione c'è anche Gregory Porter, un colosso nella vocalità ma anche fisicamente. Praticamente un orso con le sembianze di una persona. È vero, Gregory Porter, grande voce, grande successo anche per lui, ha vinto il Grammy Award con l'album Liquid Spirit, è perennemente in giro per il mondo, ha praticamente abbandonato la famiglia, me lo ha raccontato quando l'abbiamo intervistato, li vede, che ne so, una volta ogni 2-3 mesi. Ogni giorno suona in un posto diverso, Europa, Australia, America, c'è già solo questo. Allora, Gregory Porter qui al Soundcheck con la sua interpretazione di Moaning, il classico scritto dal pianista Bobby Timmons per Art Blakey e Jazz Messengers negli anni 50. Questa è la versione contemporanea di Gregory Porter con Great Voices of Harlem. Every morning, find me moaning. I'm alone and crying the blue. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows I'm moaning. Every evening find me moaning, 'cause of all the trouble I see. Life is a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning. Lord, I spend many a day and night alone with my grief. Soundcheck, il suono della musica. La classe e l'eleganza pianistica di Brad Mehldau con il suo trio in questa loro versione di Blackbird di Paul McCartney, brano tratto dal repertorio dei Beatles, ma qui assume dei colori diversi. Io mi emoziono ogni volta che ascolto questa versione di Blackbird by Brad Mehldau. Tutto, diciamo, il disco di Brad Mehldau negli ultimi anni comunque si è rapportato al repertorio anche pop, portandolo su sonorità jazz moderne. E questo perché Brad Mehldau, lo ha sempre dichiarato, è sempre stato un appassionato di rock progressive, e frequentando molto la California fra Los Angeles e San Francisco, e quindi anche gli artisti che appartengono a quell'area musicale, e essendo anche un musicista contemporaneo, poi dalla sua musica fa venire fuori tutta la sua versatilità, tutto il piacere di fare musica utilizzando anche materiale diverso da quello classico del jazz. La sua passione per il rock progressive si intuisce anche dall'ultimo lavoro con Mark Guiliana, che è veramente strano e difficile da ascoltare. E lo abbiamo presentato, Meliana, infatti. E c'è anche un pianista italiano che si cimenta un po', si muove su vari orizzonti, dalla musica classica, suona il pianoforte con le grandi orchestre sinfoniche, fa jazz, è un grandissimo pianista e forse uno degli artisti italiani più famosi nel mondo in questo momento, e vi stiamo parlando del talento del nostro amico Stefano Bollani. È un grandissimo, secondo me, bravissimo anche a diffondere la musica, nel senso è un grandissimo promoter di musica, proprio attraverso la sua arte e il suo talento riesce anche a comunicare tutta la passione per la musica, e lo fa anche da anni facendo dei bei programmi radiofonici e anche dei bei programmi televisivi. Ha una capacità di raccontare, secondo me, molto rara fra i musicisti. Riesce a raccontare il proprio lavoro e la musica in una maniera mai banale, comunque. Eh sì, e perché vi stiamo parlando di Stefano Bollani? Perché la sua casa discografica, la ECM, propone Joy in Spite of Everything, pubblicato poche settimane fa, album che vede la partecipazione ormai dei suoi fedelissimi musicisti danesi come Jasper Bodilsen e Morten Lund, ma anche come special guest Mark Turner al sassofono tenore e il chitarrista Bill Frisell. Il brano con il quale vi vogliamo presentare il nuovo album di Stefano Bollani è proprio la traccia di apertura, Easy Healing. Addirittura dura 9 minuti e 26 secondi, non avremo il tempo per ascoltarla tutta, però ci dà l'idea di che cosa ha combinato Stefano Bollani in questa nuova produzione discografica per la ECM. Soundcheck, il suono della musica. Until we dance. Voce di Kelly Lee Evans dal nuovo album I Remember When, brano intitolato And So We Dance, per questa artista canadese nata nel 1975, non ancora conosciuta da noi, ma si sta facendo apprezzare anche in virtù della vittoria del Juno Award for Vocal Jazz Album, per, quindi un album che ha vinto all'album Nina, credo. Sì, esatto, proprio quello. E l'ha vinto, mi pare, 4 anni fa, nel 2010. Sì, nel 2010. E quindi speriamo di vederla, la bellissima Kelly Lee Evans, in Italia nei nostri festival del jazz, e speriamo di vedere in Italia nei prossimi festival jazz anche una super band come la Afro Latin Jazz Band guidata da Arturo O'Farrell, protagonista della scena newyorkese, coniuga il Latin jazz con l'hip hop e lo fa in questo brano intitolato They Came. Attenzione, allacciatevi le cinture di sicurezza, perché questo brano è potentissimo, 7 minuti di grandissima energia ritmica, arrangiamento, assoli e tutto quello che possono fare i musicisti della nuova generazione di New York. Quindi noi ci risentiamo il prossimo weekend, sabato prossimo, per altre 2 puntate del nostro Soundcheck. Grazie a tutti voi, vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, le scalette anche su groovemasteredition.it. grazie anche a te, Francesco Tromba. La prossima settimana non sarai con noi perché sarai in giro per lavoro, sempre a inseguire la musica. Sì, sarò a Verona per un festival. E allora buon lavoro anche a te. Noi ci risentiamo il prossimo weekend. A tutti voi buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo e Francesco Tromba. Arturo Farrell, vai fratello, Afro Latin Jazz Band. They came. They came. They came from the land of Borinquen, where caciques once ruled, the coquilles cried, and the parrots flew, speaking Taino in canoes, eating guava and yuca under the sunshine. From the lands that conquistadors conquered, carving new cultures, carrying Africans that brought bomba, where saints doubled as orishas, hundreds of years of assimilated ethnic mixing in their bloodstreams.